partenza dell'11 aprile si è tracciato un grande affresco sulla storia dei NARI, Nuclear Mate Rivoluzionari, l'organizzazione di estrema destra a cui appartenevano Francesca Mambro, Giuseppe Valerio Fioravanti e Luigi Ciavartini, i tre terroristi condannati in via definitiva per la strage alla stazione di Bologna, ma a cui apparteneva anche l'attuale imputato Gilberto Cavallini, che è accusato di concorso in strage insieme agli altri tre. Lo si è fatto ascoltando il dirigente della Digos di Bologna, Antonio Marotta, e il capo della sezione anticrimine dei carabinieri, il maggiore Goffredo Rossi. Insomma, è stata tracciata la portata eversiva di un'organizzazione che mirava, è stato detto, attraverso un crescendo di azioni all'attacco frontale allo Stato. È stato questo descritto attraverso molte azioni compiute dai NAR, che hanno visto la partecipazione anche di Cavallini, e poi si è visto anche attraverso alcune rivendicazioni di quelle azioni. In particolare ci si è soffermati sulla rivendicazione per l'omicidio del pubblico ministero di Roma, Mario Amato, che venne assassinato il 23 giugno 1980, proprio perché denunciava la portata eversiva delle organizzazioni di estrema destra. E il giorno dopo il suo omicidio, il 24 giugno, giunse una telefonata che segnalava un comunicato dei NAR in una cabina telefonica di Roma, e qui si forniva il movente dell'omicidio per le mani di Amato, letteralmente è stato scritto: passavano tutti i processi a carico dei camerati e l'annuncio di future esecuzioni, altri la pagheranno. Qui si intende probabilmente un omicidio che era stato progettato e poi non attuato, che era quello del giudice di Treviso, Giancarlo Stiz, che era il primo ad imboccare la pista nera per la strage di Piazza Fontana del 69 e aveva fatto arrestare poi Franco Freda e Giovanni Ventura, i vertici di Ordine Nuovo. Ma poi insomma sono state passate in rassegna tante altre rivendicazioni e sono stati citati davvero molti nomi nel corso del processo, però quello che ne viene fuori dall'udienza di ieri è il ruolo centrale di Gilberto Cavallini. Infatti è stato lui che si è occupato di far curare Luigi Ciavartini, che era stato ferito a un sopracciglio da un colpo di rimbalzo in un'azione del 28 maggio 1980, quando venne ucciso sempre a Roma davanti a un liceo Franco, l'agente di polizia Franco Evangelista, e vennero feriti due suoi colleghi. Ed è sempre Cavallini che il 31 luglio del 1980, siamo praticamente alla vigilia della strage, va a prendere all'aeroporto di Venezia Mambro e Fioravanti, che arrivavano dalla Sicilia, per portarli nel covo di Treviso. Aveva disponibilità di auto che metteva a disposizione del gruppo, e oltre ad avere documenti falsi aveva anche l'attrezzatura per fabbricarne di nuovi. Infine è stato sottolineato che sempre a Cavallini, al momento del suo arresto, che avvenne a Milano il 12 settembre del 1983, venne trovata un'agenda su cui c'erano delle annotazioni, alcune in codice, ma l'interpretazione che è stata data da Ross e Digos a queste annotazioni in codice, insomma, è abbastanza particolare. Tra queste annotazioni, per esempio, c'è una serie di nomi di estremisti di destra che erano già diventati a tutti gli effetti collaboratori di giustizia, avevano cominciato un percorso che li avrebbe portati a collaborare, e accanto a ciascuno di questi nomi erano state tracciate una croce e in un caso particolare due croci. Non viene dato un'interpretazione come, diciamo, condanna a morte, però insomma questo è quello che fanno pensare. Questa in estrema sintesi è la sostanza di quello che è successo ieri. Di questi temi si tornerà poi a parlare mercoledì prossimo, il 18 aprile, quando verrà ultimato l'esame del maggiore del Ross Rossi, e poi si procederà con i nuovi testi, che in questo caso sono tutte donne. Sono Flavia Sbroiavacca, che era la compagna di Gilberto Cavallini, Elena Venditti, che era la ex fidanzata di Luigi Ciavardini, e poi la sua amica, anche lei legata ad un altro estremista nero, Cecilia Loreti.